Perdonami che stamattina non ce l'ho fatta, vabbè, ero incasinato, ho perso, guarda. dovevo tornare indietro, infatti ho detto ci vediamo dopo, ma non ce l'ho fatta, sono dovuto scendere a Porto Torres. Non so se ti piace per cosa hai là, e questo fatto dell'acqua qua, mi dice come ti preoccupi, ma ne la facciamo bene l'acqua del rubinetto? No, Roberto, ancora no, uscirà l'articolo del giornale, stanno bonificando. Quindi devo andare con l'acqua di coso, perché poi io ho quel filtro a carboni, devo bere l'acqua di nuovo di bottiglie. Sì, Robè, momentaneamente sì. Non so se mi posso informare dal chimico, con i filtri come c'è tu, se è fattibile. Però è preferibile ancora di no. Stiamo bonificando, infatti l'ho portato a Torre, se ce l'avevate, è un casino. Spero che in settimana, insomma, ci sia l'articolo sul giornale che la bonifica è terminata. Non è stata colpa nostra, è qualcosa che è andata all'interno delle condotte. Non si sa ancora che cosa stanno verificando. Va bene, ok, grazie. Proseguite, dai, Claudio, ci sentiamo con Canonari e più tardi entro. Ciao, sono quelli della Balagua, poi visto che non entro, dai, proseguimento. Cos'è il combinato? 5-1-4. Ciao, Claudio, ci sentiamo con calma, dai. Tenete presente come ho sentito prima la Claudio, canale 10, number 1. Non ce l'hai sentito. Sono io, vabbè, già mi senti lo stesso col baracchino. Ancora non siete nuda, vabbè, aspetta che attivano tutti gli amici di Alghero e siamo tutti qua sul 10. Ma oggi c'era 10 persone, c'erano tutte qua. Già va bene, beh, sono contento, almeno animiamo un po' a Sassari. Peggio per chi non c'è, pazienza. Io non ho fatto niente a nessuno. Si arrangiano. Ok, Fina, mi ascolti col barracchino? visto che la radio è buona e uso anche questa qua. Poi dei canali non me ne frega niente, io intanto rimango qua sul canale 10, non vado da nessun'altra parte. Se poi c'è qualcuno che vuole fare qualche prova, commuto l'antenna e passo col K, quindi non me la fotti nuda dei canali, capito? Comunque la portiamo su un altro pochino, le mettiamo qualche tirantino a quell'antenna, perché non mi piace, non è molto sicura. Adesso inizia l'inverno, è meglio dormire tranquilli, Mauro. No, niente, guarda che la stavo guardando, sì, non mi chiede, mi sta facendo buone, si sta mantenendo bene quei buchi, perché gioca, il primo buco non va bene. L'ho rifatto come ci deve. Infatti quel primo buco non va bene perché hanno trovato il vuoto, perciò te lo sto dicendo. Quel buco si tappa con lo stucco e si fa l'altro buco leggermente più sopra. Ah vabbè, mi stava dicendo se non mica eventualmente di mettere o le cementiamo e così abbiamo risolto il problema. Vediamo, adesso domani siamo a Cagliari, ma non ne parliamo. Magari se rientriamo presto passiamo direttamente, se non c'è vento si finisce, dai, si scende con Luca un attimino e si finisce bene. Ebbè lì hanno trovato il forattino, è chiaro che la staffa non è molto stabile, ma è una stronzata quella. Si fa il foro un pochino più in alto e l'altra si mette a posto, che poi quella staffa basta a entrare dentro leggermente e già la sistemo io, dai, non ti preoccupare. Comunque l'importante è che adesso l'antenna sia piazzata. Prego. Un secondo che cambio apparato, un attimo. Beh, mettiti anche l'altro, non c'è problema, dai. Avanti a tu. Buonasera. Buonasera, Falco della Montagna. Cazzo, ma sei andato a buttare Tullio a fare un giro dell'ippodromo o hai già fatto? È proprio a fare il giro dell'ippodromo. L'ho portato proprio a fare il giro dell'ippodromo. Cazzo, si fa quello sempre in forma asciugare. Sì. Ma mi senti, sì, con questo piccolo barracchino? Sì, a Puglia, Puglia. Cazzo, mettendo pure un bilancio in Alghero. Ah, l'hai provato con pedaggio? Sì, lo sento io con 4 watt e mi sento lui con 4 watt, ma rimonimo che c'è un linearetto meno lì, te lo vuoi mandare. Anche Roberto ha detto bella modulazione. Ia. Molto si è piegata l'antenna di Mauro. Un bel, quella staffa non va bene, Anto. Bisogna scendere immediatamente e metterla a posto. Si muove troppo e col vento la sposta l'antenna. Bisogna fissarla bene con la staffa, fare quel lavoro che hai detto tu, si mette dentro, siccome il mattone è vuoto, si mette dentro quel prodotto, un attimino si sgancia e si lascia asciugare e poi si ripiazza. Sì, faremo così. Quando lo facciamo questo lavoro? Guarda, io domani sono a Cagliari, non vi posso dare orario perché intanto Mauro è con me, viene a farmi compagnia. Io ho appuntamento a Cagliari a mezzogiorno e mezza, però non voglio fare la fine, il mio collega gli hanno preso la patente. Quindi voglio andare piano, tra l'altro la macchina di mio cognato è una bestia, quindi devo andare piano. Devo andare molto piano. Perciò fai che a mezzogiorno e un quarto io ho appuntamento. Fai che esca a luna, dai, intanto a mezz'oretta con consegnarsi i documenti, farmi due chiacchiere in direzione e poi ci mangeremo una cosa e ripartiamo. Perciò fai che siamo alle 3:30-4 a Sassari. Ma se il tempo è buono, no, possiamo anche farlo domani. Al limite ci aggiorniamo al telefono, Anto. Se no la spostiamo dopo domani. Capano, già, fammi sapere allora se lo vogliamo fare domani. Se è tempo che vieni con tranquillità con tutto, si può fare anche domani. Sì, tanto Mauro come viene con me a Cagliari domani, quindi non c'è problema. Se il tempo è buono, intanto lì una stronzata. Porto direttamente il prodotto, si mette dentro, si lascia asciugare 10 minuti la staffa e poi si reinserisce il tubo. Perché muove troppo e si è mettere preoccupato con i gaggi d'antenna, cazzo, ma non sarà pindaccio, no? No. Ascende non scende, comunque domani verifichiamo tutto, magari porto un po' di... se riesco a trovarlo un po' di cemento a presa rapida, così inseriamo il cemento a presa rapida, inseriamo il tassello, boh, 10 minuti a fare. E la completiamo così, rimane meglio e non si preoccupa nessuno, dai. Se vede se un Michele abita lì, ha visto che il tuo tubo è muovissimo, vabbè c'è un bel vento, però non si deve muovere. E poi ho due tirantini fini, di quelli in nylon, glieli metterei, non danno fastidio, giusto per tenerla ferma, perché è abbastanza alta quell'antenna, e cazzo se me la fa bassa, è già 5 metri e mezzo in antenna, più ci abbiamo 2 metri e mezzo di palo, perciò è già insomma 5 e 2 centi, 7 metri l'antenna, bisogna sistemarla bene, dai. Comunque arriva benissimo Mauro qua, vai Mauro. Ci passo un attimo a regolare, e già una cosa fattibile, dai. Te l'ho detto, se scendi verso quello che hai detto, ci facciamo un saltino e sistemiamo tutte le cose, no? Non c'è problema. Perché non va a nessun posto, non va a nessun posto l'antenna, vai tranquillo. E sistemiamo quell'altro tassello che abbiamo messo e vedrai che rimane sempre più a chili. È un muro di cose, di gatti, di sugar. Io pensavo che andava a trovare il vuoto, se no avrei fatto prendere quei tasselli chimici a Mauro, capito? Ma cemento la ditura, cemento armato, ma le piace cemento armato. No, c'era solo la parte del cemento armato, l'altro è il cemento armato. L'altro è impatto, quello che tiene le tegole, vedi pochi paraoli, dai, no, non è il cemento armato. Allora, il circondo ha trovato il vuoto per quello che si muove la staffa. Ma non è un problema, non ingaggi comunque, fruttidino, non ingaggi. Oh, come ha detto Luca, mettiamo due tirantini, e va meglio così, dai. L'importante è che adesso si senta e che possa parlare tranquillamente anche la sua morte. Sto provando a farmi uno spezzone, niente, no, gli ho preso quelle balenine nuove, devo metterle una dentro l'altra, almeno posso lasciare in corrente il tutto e non sto lì a attaccare un pezzo alla volta. Sono quasi 9:20 anche qua, perfetto. Chi lo vuole fare domenico? Ascoltato e bene ascoltati, poi a noi, a voi, anche a Mauro, come ho bene sentito bene adesso qua anche a più, anche io ti copio bene. Allora ci sentiamo un po' tutti, dai, ci rilasciamo, se te fa, non ti sento, non ti vedo, non ti accoppio, non ti tocco. No, comunque la mettiamo a posto queste cose. Non c'è problema, domani facciamo quello che dobbiamo fare, vedrai che con la stampa se ne muore di dentro, tranquilla e serena. Tu e Giarmuzza, io sono il compreso tu e Giarmuzza. Buttiamo dentro il chimico e rimane ferma, non si muove più. Due tirantini, a voi per dita, una destra, una sinistra. L'antenna è a posto, questo c'è molto di biliguagno quell'antenna, non pensavo che con quel sistemino che c'ha della spirale col cavettino per la misurazione della stazionaria è perfetta, 1-1, non si muove, come si può stazionare male? Adesso guardo un attimino, un secondo e vediamo, quasi un ricipro. Con quello lì, come perché si muove quando parte, ma portante fissa sono le due. No, ho aumentato appena 1.4 mi da questo. Aspetta. Sì, quasi 1.4. Con quello lì sì, perché fa più watt, ma va bene lo stesso. Hai due cavettini a corda, ma puoi fare miracoli. Quello è il cavettino di bella corda. Adesso vabbè, quando la mettiamo in tiranti che salgo io, perché io non sono salito io, glielo sposto leggermente a dove si scende. Glielo sposto leggermente a dove si scende, ma va benissimo. 1.3, 1.4, più, c'è 1.5 io sui canali alti. Lo portavo sempre con l'accordatore slitto, ma non mi va tenuto. È più che modulabile, 1.3, 1.4. Ottimo, va bene, per l'antenna che è più che sufficiente. Ma se ce la regolarla, se vuoi non c'è problema. Ma oggi va tutto in pressa. Comunque quella regolazione lì si fa girare appena, si fa ruotare appena la spirale, dovrebbe scendere anche a 1.2, ma le stazionali si devono muovere, non pensate che le stazionali devono rimanere a zero, cioè quando sono le stazionali a zero non va bene, almeno 1.1, 1.2 sono più che perfette le stazionali, vanno benissimo, io sto in accordata, allora io so sempre l'accordatore inserito, cioè che questo è in automatico, c'ho 1.1, quando fischio sale leggermente, e va più sempre bene, non devono mai rimanere a zero le stazionati, è meglio sempre che ci sia appena appena di induttanza nell'antenna, altrimenti non va bene. Beh, ti credo. Frappé, dai! Che dolore, ho visto le stelle, ho visto Mercurio, ho visto Gesù Cristo in mutande, cosa che non ho visto, tutto ho visto. Cazzo, che dolore, mica brutto mi ha tu, madonna. Che ci sono ghigni, guarda, di domenica. Madonna mia, cara, cazzo. Collaudato a vino, cazzo la salì, era la massa da capito che la detto, il rubo 5 secondi, cazzo, e del tom, tin, tin, tin, il coso, oh, per e per, tutta la tratta del tom, un tonfo, che fa dire, ma, e dico, oh, mamma mia, come sto. Allora, mi è capitato, 5 anni fa, no, circa, ma sono fermo. Ma il cantiere, diciamo, sto qua a fare delle tracce, ma che pensavo magari, non dico di cioccolato, ma insomma non così duro, tacchite, culendi, prima mi si trovi la mano, mi si trovi la mano chiusa, tanto la maffetta, ma mi occulto questo poeta a mano, beh, non so, la mano non si voleva più aprire, la colpa c'era il... Allora mi si è addormentata, con la matita in mano, proprio incugnata. Ma di questo che poi fa la mano, guarda che Sant'Antonio ha di cui c'è un nudo. No, sono dolorosi, cazzo, i colpi lì sono micidiali. Se poco fa mai la matita a mano, la mazza mi rivaria. Yeah. portato una cosa, ho provato a tentare quella fare, ma le cose che ho detto mi è uscito male. Stavo provando a tentare il 747. Cioè, perché quello lì chiudi tutta la... chiudi la torretta, se non lo bruci, ti conviene attaccarlo al... all'MS200 Lafayette 747, Mauro, e quello c'è già 30 watt la radio. Ehi, ma cosa mi stava dicendo? Dobbiamo passarlo a 5 e dopo attaccarlo. A 5 però fischia, però a 5 sul parlato, perché qua la radio c'ha le picchi di modulazione allucinanti. E soltanto, deve essere fatto male il cavetto, perché vado a controllarmi il cronometro e non si e va e non va. Vuol dire al contrario, dove l'hai attaccato l'antenna? L'antenna dove c'è scritto antenna, RTX dove è l'uscita. No, l'antenna l'hai attaccata all'interno o al cronometro? Cronometro. Cazzo, benissimo, funziona. L'antenna metti la sua antenna lineare. Ok, antenna su antenna lineare. Poi fai uscita del lineare, trasmettitore all'osmetro, trasmettitore DX a baracchino. Il capare se lo faccio e lo attacco all'MS200. Capito? L'antenna di discesa, il cavo di discesa lo attacchi dove c'è scritto antenna del lineare. Poi il TX del lineare lo mandi all'antenna all'osmetro, il TX dell'osmetro in uscita lo mandi all'ingresso del baracchino. Anche quasi 9:10. adesso cambio l'altro. Abbiamo aiutato parecchio, da 8 a 9 mesi qua lui, ma da tutte le parti sta levando così, già va bene. Sì, sì, con questo apparato, però voglio verificare con l'altro che stava mollando prima, capito, vedere che segnale arriva adesso. Beh, con l'altro mi arriva leggermente più basso, però mi arriva bene lo stesso. Guarda adesso Luigi. Vai veloce che ho un po' di tratto. 1, 2, 3 prova. Allora, 6, 8, 8 e mezza, 9 non ci arrivi. Da 3 che eri l'altro giorno. Adesso arrivi fortissimo, perfetto, ma già va bene, va bene, va bene. Perché con questo apparato mi eri un Santiago di 3, tu, capito? Adesso sì, quasi 9 non ci arrivi, manca un pelino 9 a Santiago 9, capito? Va benissimo, l'altro lo superavi, però va bene anche con questo, perché c'hai quasi, sì, quasi 9, essendo quasi 9 è un buon segnale. E vabbè, anche perché intanto adesso la dovremmo sistemare questa e niente, fine di sistemare il palo e stavo pensando di alzarla un pelino e così vediamo di uscire qualche cosetta in più. Sì, sì, ma va bene, ha cambiato parecchio, che cavolo, da 3 a quasi 9, adesso dovreste ascoltarti anche, dovreste anche aumentare il segnale da parte mia pure, perché dovresti ascoltare molto di più, se esci di più devi ascoltare anche di più. Sì, si sente meglio, si sente bello chiaro, nitido, tranquillo, meglio, va benissimo. Sentivo, Falchetto, Antonio ti ascolta adesso. Cappa di Roger, anche con Antonio ci sentiamo, sì. Ma qua è a posto, Claudio, va bene. L'altra non supera i 9, 9, 9, 10, con l'altro 48, con questo manca un pelino al 9, dai. Sei quasi 9, non ci sei, ma è comunque la radio buona, è ultima, va bene. Va benissimo, capito, da 3 giri si è passato quasi al 9. Infatti adesso l'unica cosa che ho ordinato il microfono da coso, da Fusaro, e fra 15 giorni arriva così metto il microfono a tavola invece di usare questo qua a mano. E cosa che si è fatto ordinare? Bah, adesso non mi ricordo, bisogna chiedere a Claudio, perché mi ha detto Claudio di prendere quello, capito? Di prendere quello. E sto guardando, questa qua sta uscendo a 5 watt. 5 watt. E come quello tuo l'ha preso lui? Come quello tuo avevi più 4, capito? Oh, mettiti la con Luigi. Se Luigi non fa nulla prendi quello, poi quando arriva quello là già si ritira lo stesso, non è un problema, tanto già serve sempre un microfono in più. Ma tu lo stai dando con avevi più 4 lui. Beh, è positivo, quella cosa l'avevamo fatto. Quel ponticello me l'avevano fatto, io non sapevo fare, mi hanno fatto fare quel ponticello e più la capsula, quella in ceramica come cavolo è da più, infatti se tu apri tutto da un partecipatore, capito? Allora amico, Mauro, mettiti d'accordo con Luigi e ce l'ho già pronto, capito? Ce l'ho già pronto anche con le connessioni pronte, c'è il cavo lungo. E usi quello lì, capito? Poi l'altro quando arriva già si ritira lo stesso, non c'è problema, lo ritiro io, no, non è un problema quello. Fatemi andare alla fine di mangiare che torno subito. Telefona a Luigi, non parlare qua. Senti a Luigi, fa telefono, ti metti d'accordo. No. E il capo di luce, va bene, no va bene, intanto al limite l'altro lo prendo e lo attacco al mite l'altro. No, ma il mio è modificato, no, non va bene, attenzione, Mauro, deve essere normale, tu senza passare la calamita, quel canale normale, nel 48, non va bene, deve essere senza l'eco, senza cosa, il baracchino deve essere normale perché ha amplificato lui. Capito, no vabbè, ma c'ho anche l'altro ala, capito, quindi non è buttato, cioè lo uso uno in questo e uno nell'altro. E poi sì, ma io sì, addirittura non sono portato con questi microfoni, realtà mi piace uno, mi piace un tipo di microfono, mi piace a me, e ne ho sentito da contratto, poi l'ho preso, ne avevo preso a poco, l'ho preso, poi l'ho preso nuovamente un altro, che c'era Claudio, e poi non glielo però mai, io questi microfoni, non glielo però mai i microfoni a tavola io. E vabbè, ecco, casomai oggi sentiamo domani sera quando, tanto tu per giocare a rientri. Cinque e mezza, sì. Casomai ci sentiamo domani sera quando rientri, se noi abbiamo finito ci facciamo un salto con Claudio. Positivo, come ce l'hai tu gli attacchi in questo apparato qua, come quello del 48 ce l'hai? Mi sembrano che siano precisi, come attacco mi sembra uguale. Tu hai provato il microfono se funziona o no, quello del corde che c'è nel 48, che è quello modificato. No, vabbè, che invento lui, ah, questo qua, non lo so, non l'ho provato. Che sembra mettere le connessioni del microfono? Vabbè, quello non è un problema, quello si apre e si sistema, capito? Non è facile, ma basta mettere, lo metti da una parte e poi facciamo lo spacco, no? Qui di sotto, lo metti sopra e qui di sopra lo metti sotto, proprio il gioco. Va bene, ok. anche questo il microfono, c'è problema? No, vanno bene tutti e due, Claudio, va bene anche questo, e va bene questo come quanto l'altro. Se non dici nulla, te lo piacco, ce ne vediamo l'altro, tu lo sai. Ehi, vabbè, questo qua se ne accorgono perché inserisco il bippi. Ma sai cosa fa questo? Questo, con quello io non sentivo la radio televisione che c'è, invece con questo lo senti, le senti altre musiche, altre cose che c'hai vicino, hai capito? È più sensibile quello lì, la senti di più, capito? Se le senti il rumore, c'è una radio, una televisione accesa, in basso volume, lo senti leggermente, invece l'altro non lo rompi. Ma quello, il 3 più 3? Questo è molto più sensibile, forse più aperto dell'aria, non te lo so dire. Senti, c'è una televisione, c'è qualche musica vicino a te, anche se passa, si sente una musica di qualche altra cosa, di questa televisione, di cosa, capito? Questo qua c'è il amplificatore un pochino più forte, però già va bene lo stesso. Vanno bene tutti e due i microfoni, va. So, un clic varacchino c'è una cannonata, tutti e due. Quello lì, hai capito? Quello lì che ho preso lì, avevo preso tutto un blocco, no? Se ti ricordi, da ho preso l'alimentatore, quel brutto, quell'altro baracchino da tappe, i microfoni, avevo fatto tutto un blocco con lui, capito? No, Salvatore, avevo fatto tutto un blocco, capito? E avevo preso tutto assieme. Sì, ma questo Savetta va. Va alla grande. Adesso ci rimane col SERS, vedi, da cambiare quelle connessioni, l'altro giorno lo facciamo con lui, e mettere la femmina all'interno e provare questo saletto a vedere col SERS, quello SSM50, è una bella bestiolina, è simile all'LMS200, della Fayette, capito? Va bene lo stesso. Positivo. Poi non lo so se Mauro l'ha regalato a Tizi qualche caparra per ordinare o come? No, ve l'ho ordinato, non ho voluto niente, non c'è problema. Si prende quello tuo, poi quando arriva l'altro, uno, quello tuo lo mette all'LMS200, quello modificato lo tiene in macchina. E l'altro, quello che arriva, le mie più 4, le faccio la modifica e si mette la 48 normale. Ed è arrivi il duetto, ed è a posto, si siede e parla tranquillamente. Ma io non ho messo alcun problema, non ho problemi, non ci sono problemi, capito? Senza nessun impegno, senza nessuna cosa. Ecco. Tanto domani viene a Cagliari con me. Devo andare a Cagliari in ufficio io. Quando rientriamo poi già ci vediamo, non c'è problema. E positivo, anche io sono a Cagliari domani mattina presto. Sono a Cagliari pure io, devo scaricare prima a Terrapo, poi Macchiarito e rientrare a produttore dall'Irichi. Poi io parto alle 9:30, intanto c'è appuntamento a mezzogiorno e mezza da lui. Mezzogiorno e un quarto poi esce in direzione generale. E poi niente. Mangiamo un boccone con Mauro a qualche parte e poi ce ne rientriamo. Infatti viene a farmi compagnia domani. È positivo, e allora io parto intorno alle 11:30, 11:15 da Cagliari in direzione qua. E quindi può darsi che ci incrociamo là. Positivo. Niente, ma io sono sceso perché mi ha chiamato coso e mangiato, cenato, però stavo poi in televisione e niente, stamattina sono stato presto alle 4, come le mattine altrettanto, e niente, io gira, me ne risalgo su, sono le magliettine, i pantaloncini e sto quasi sudando, c'è un caldo della Madonna. Ha fatto caldo, e c'è caldo anche io sulle magliette, c'è caldo, c'è anche la finestra aperta, accettato, Gigi. Vai, vai su a riposarti, non ti preoccupare. Adesso aspetto che rientri Mauro. E poi già siamo qua, dai. E ti devi alzare presto, non c'è problema. Va bene, dai, io vi saluto. Ciao Luca, che sei in ascolto. Ciao Claudia, buonanotte. Saluto a Mauro, ciao. Ma sono qua, già ti sento. Ok, grazie Luigi del controllino. E ci vediamo domani sera, dai. Va benissimo. Va bene, la radio va bene, voglio dire, il segnale è buono, è ottimo, amore. Va bene così. Anche per intanto vediamo domani di finire di sistemarla, dovrebbe poi migliorare un pochettino di più. Dovrebbe migliorare un pochettino e siamo a posto così, no? Positivo, che va già bene. Va bene, dai, io vi lascio, vi mando su a... Io vado a poter vedere, poi vado in curico. Vediamo, alzare il peso domani mattina, dai, devo alzare domani alle 4. Su ogni mattina alle 4, mi alzo, e alle 5 in deposito. Positivo, anch'io esco alle 5:10 dal deposito. Per fortuna già abbiamo un falchetto che ci fa compagnia la mattina, che non vede mai di... È andato con le casse a riposarsi per domani mattina, se no non ci può accompagnare. Ma no, è già entrato adesso, non si mangia niente ancora. Sì. No, non manca mai, Antonio, non c'è problema. Sino alle 10:15, ci facciamo sempre due chiacchiere. E va bene così. Ok Gigi, dai, ti saluto, un abbraccio, ci aggiorniamo telefonicamente per questa cosa di Mauro, non c'è problema. Ciao Paolo, la mattina quando accendo faccio chiamata alle 5:20, faccio qualche... Okay. Pronti, sei sempre pronto. Non dormendo, Si alza presto, non ci vediamo alle 7:10. Prendiamo il caffè assieme e poi andiamo a lavorare. Sto sempre presenti, no, non sbagliamo. A te che ha fatto come schiacciato per un attimo di secondo, ha fatto come un fischio, un innesco. Non ha fatto come schiacciato al primo, come tipo un innesco di fischio ha fatto. Già, vuole pulita la pulsantiera lui, è quello il problema, capito? Vuole pulita la pulsantiera, però ero impegnato questi giorni con Mauro a sistemare un po' a lui, poi questo qua piano piano già lo sistemo. E che non c'è Giancarlo, vedi, io Giancarlo si occupava, proprio si impegnava a fare, perché questo che c'ho, questo l'avevo portato da Giancarlo, me l'avevo messo il cavo lungo lui e l'aveva tutto pulito dentro ed è controllato, capito? L'aveva fatto Giancarlo, aveva fatto questo punticello per dare più radio, mi sembra un punticello che si fa dentro, non so se ci fa un specie punticello. E io un punticello con un transistor ci metto, non c'è problema. No, già va bene, quello già va bene, poi è nuovo, quindi già maraggio con Mauro, non ti preoccupare. Ok, ho messo staccato anche il beat, faccio uso un po' questo e poi riattacco il 3+3, quindi non c'è problema. Giancarlo, me l'avevo fatto fare da Giancarlo quel ponticello, me l'aveva fatto lui. Fatto lui e poi mi aveva messo la capsula in ceramica, è stata cambiata. Dalla sua in quella in ceramica è stata messa. Piccolina, è tipo il 3+3, con tipo quella lì, dai. Sì, quella lì già ho capito qual è. No, ma va molto bene, non c'è problema. Poi ce la proviamo. Ciao, buonanotte a tutti, ciao. Adesso ho riattaccato il 3+3, ciao. Ora sono qua, 2 minuti. Vabbè, falchetto. Alzati e cammina. E beh, e chi c'è? Intanto Gigino è andato a vedersi un po' di televisione. Niente, Mauro non so cosa stia facendo. Luisa stava cambiando radio, provando, facendo. Comunque, arriva benissimo, non ci sono problemi. Luca è al PCC e niente, siamo qua. Sì, sì, no, anche qua arriva bene. Arriva bene. No, oh, abbiamo risolto il problema. Sì. E se tanto Luigi ne ha uno, cioè quel MV4 non lo usa. Domani passiamo, lo prende Mauro, poi quando arriva l'altro lo mette sull'altra radio, così ne ha due di MV4. Uno già modificato lo mette sull'MS200 e l'altro lo mette sulla 48 normale. In macchina c'è quello modificato e quindi c'ha due radio a casa e una in macchina, più che sufficiente. Sì, va bene, auguria. Sì, auguria, ci siamo qua. Ma io smetto tutto, sto usando il baracchino. Ci sentiamo perfettamente, non c'è nessun problema, che sto niente vede la gira, ne ha casino, ma ho fatto la mazza, vedi varia. E tu non c'è piangere, non la sai come. 9:30 dopo cena, e ci sentiamo. È rimasto stupefatto, c'erano cazzettone più 3 con la KB23, già è un anno. Comunque ho guardato bene lo strumento, 5 watt da, 5 watt pieni. Questo è il buon usotto, uno di quelli neoliti da 50 watt a MOSFET. E ti dico che non posso rullare la forza di questa radio. Sì, no, è buona. È già forte da sé. Se li metti, quella lì, guarda, è un brutto. Sì, va bene. Come per fare due chiacchiere così, poi se c'è propagazione, se c'è, basta che commuto e vado con l'altro, non c'è problema. Non problema, a parte il fatto di mettere nel brunchio, quindi. Sì, ti sento la voglia. Dice che si andende, dite andende, no? Ah, vedo che andende, microfono male ti è già. Va bene con il microfono, più che ottimi. Poi sono leggerini, belli. Sono leggerini e belli da manovrare anche, giusto quando si sdraia, Tommy, per stare col dito sempre, pacca. Se lo metto porti a mano e ciccia. Io, vabbè. Io perché sono organizzato così, la radio ce le ho tutte qua. No, non ho mai avuto così come ce l'hai tu. Ci non vedremo subito. Già ti trovo mangiando sul tracco, perché devi immaginarci. Beh, ti dormi sì. Poi sei stanco, niente. E ovvio poi ti addormenti. Come fatti? Ti addormenti sì. Però già siamo svegli, quando si modula già stiamo svegli, non c'è problema. Quando si vede non ce la fa più, si chiude ciccia, dai, no. Tutto royale. Quando non è stanco quando andare a dormire, non è l'età. La lista di radio. Vabbè. Mi mattare presto una mattina, tu lo stesso, quindi. È giusto che ci facciamo un paio d'ore, un'oretta, vabbè, stasera siamo tutta la gira, rabattene, tra antenne e microfono. Ne abbiamo fatto abbastanza di radio, quindi. Ancora una mezz'oretta, poi spiego tutto, ma me lo vado a nonna. E domani va giù 400 km a fammi. Infatti. Ci vuole anche un po' di riposo quando si va a fare tutti i 2 chilometri, gli anni vai abbastanza travagliente, se domani devi fare quei chilometri lì conviene riposarsi presto, così sei più presto la mattina e via. Infatti per quello che fa Mauro, la tanti a Luca ci veniva, ma c'è un impegno domani, pure fa la spesa alla madre, un sacco di cose, invece Mauro alle 9 è già finito, è troppo prima, alle 9 è già finito, se vogliamo un caffè 9:30 partiamo, posso prenderlo e partiamo anche a Cagliari. viene Mauro a fare compagnia. Via, tanto è giovedì 10 minuti, no? Devo vedere questa cosa con in direzione generale, consegnare questi documenti che mi hanno chiesto e poi niente, e poi se ne andiamo, non è un problema. No, mi voglio fermare lì da Pesolo a Cagliari, se c'è quel 747 che costa 30 euro a Cagliari, 4 minuti lo fa pagare 45-50. Adesso, ladro, sempre di più vedo quanto pagare i giorni. Ma già ci passo, gli dico, cazzo, 40 euro e Sant'Anna che ha dato a Mauro la prima, cazzo 35 euro la seconda, 5 ottavi, cazzo un po' di alla Issa. Potevo dare direttamente quella che era 5 ottavi, che era la signora Antenna, ho visto quanto c'è bene anche qua, adesso noi ci ascoltiamo tutto quanto, va bene. Però c'era imbarcato il suo cazzo di bidone e non si via nulla. Infatti gliel'ho fatto riportare indietro, ma no, quello gli ho fatto prendere a Fusaro, perché lui ne aveva una, l'ho detto controlla se c'è tutto dentro la presca, però ci mancavano le staffe, le viti, la piastra per attaccare il radiale, che ma non mai uno di vendere un'antenna che tu rimetti a metà, ho detto lasciagliela stare, vai da Fusaro, gli ho detto ma l'ho dato io a Antonello, e gli ho dato quella ringo lì a 35 euro, un'antenna qua eccezionale. Ha fusato via 4 novembre, esatto, però no, tratta bene quello, già c'ha altri figuri. Bene, infatti sì, magari aveva comprato da prima, già ha piazzato e dimenticato. Ma infatti, ci abbiamo pensato, ma lui voleva un'antenna piccolina, giusto per fare due chiacchiere, alla fine ho buttato un'antenna di 6 metri, tanto voleva pulire la mantola e ciccia, vabbè. Comunque va bene anche quella lì per fare due chiacchiere, ma arriva a tutte le parti. E non è molto ingombrante, dai. Diciamo che senza radiale però è sua carichina, tranquilla, no? È bellina, è bellina, no? Rete molto, molto flessibile, molto bella. È simile alla tua, no? È simile alla tua, solo la tua c'è radiale, questa radiale non è. Hai visto come lavora, c'è quella spirale cortocircuitata con l'anellino per regolare stazionati. Adesso l'abbiamo messa così. Comunque stazionali sono 1-2, ma 3 mi ha detto Mauro, accettabilissima, però le voglio scendere ancora un pelino, quindi quando facciamo quel lavoro e quella staffa glielo giro quell'anello, glielo porto appena più avanti e così scendono un pochino. Ebbene, Peter, rimane più o meno stazionale, oh, vabbè che è buona, è ultimo 1-2, 1-3 va benissimo, non è che succeda niente. Sino alla scala di 1,5 le stazionali sono affidabilissime da tutte le parti. No, ma lui le segna 1,3 con l'ARA 48, quello modificato, c'è cioè 30 watt, capito? Aumentando la potenza, chiaro che sale anche appena le stazionali. Invece con l'MS200 c'è 1,2, quindi è affidabilissima con l'antenna, va benissimo. Però gliele scendo appena, giusto per avere la potenza, quando sollevo la potenza che non salgo le stazionali. C'è a Marangiuli, io non ci sono molto salito sul tetto, visto che ho assemblato l'antenna e ve l'ho piazzata, poi porto due portatili miei, così non siamo con i telefonini da sopra a sopra, cioè che non diamo meglio, porto i portatili, teniamo acceso, io parlo da giù e ti dico stringi allarga, capite? E poi li metto quei due radialini che è meglio. Quei due tirantini che è meglio, così è più sicura, signor Michele, non sa se un cadito un cazzo quanto flette quell'antenna, guarda che ne cade, cazzo, la gita è malo tocca di. No, cioè, è meglio che prenda l'antenna, se è flessibile l'antenna, se no che antenna esco, se è troppo rigida, anzi, se è troppo rigida è che si spezza, quando flette l'antenna va più che bene. No, ancora rigida va bene, ho visto il piantone abbastanza grosso, sembra fine ma non è uscito, fine sono gli altri tre elementi, ma si assomiglia un po' alla via 27L che era così, ma cazzo piegava ma non spezzava quella. E oggi gli alluminio, le antenne che fanno l'alluminio sono tutte particolari, hanno una grossa resistenza al vento, quella c'è scritto 150 km/h, cazzo cos'è, lavora, qua i venti non superano i 60-70 km orari, non ne abbiamo noi venti qua a Sassari che raggiungono quella velocità, quindi è più che sufficiente con l'antenna. Lo credo bene, lo credo bene. E infatti noi non è che siamo nella zona in cui abbiamo questi grossi venti, quando capita proprio il vento, ma non è che ti pigia l'antenna così, no, capito, sono venti così normali, regolari. No, già va bene, non c'è problema, va benissimo. Sì, no, alla grande, cazzo, guarda che è aumentato parecchio. A non sentirlo per niente, a sentirlo oggi lo sentivo 9.20, 9.10, 9.15, 9.20, perché arrivava, ha cambiato la giornata notte. Beh, ci avevamo un'antenna a un quarto d'onda, cazzo di un metro, eravamo fortunati, come 3.20 ero virus. Lo vedi che gli ostacoli erano, l'ostacolo era perché era bassa l'antenna, o no, Claudio? Perché era bassa l'antenna è perché praticamente non serviva a niente. Non serviva a niente quell'antenna, era proprio un'antenna di chissà da 13. Infatti, era proprio un'antenna da 13, perché ci sono antennine così basse che sparano, che è una meraviglia. Lo dici se aveva poco a carica, ma è fatta male. No, era proprio un'antenna di quelle radiogetta, no, non serviva a niente, Antu. Non serviva proprio a niente, nulla, zero, zero sotto zero. Adesso questa qua è già un'antenna 5 ottavi, è un'antenna che lavora bene, non è che, e tieni conto che è molto bassa, capito? È molto bassa, quindi lì basta sollevarla ancora un pelino, finire bene quel lavoro che c'è da fare e vedrai che migliora ancora di più. Ma Giulia se ne è già accorto che la ricezione tra questa di adesso e quella là ha cambiato notevolmente. C'era Daniele che stava rientrando all'Alghero, era sulla 4 corsie, l'ho chiesto un controllo e mi ascoltava benissimo. Cazzo, con quella non arrivava neanche da te, roba da matti, mi stavo preoccupando. Infatti. Poi è entrato Tore, ha confermato anche Tore che lui c'era di fronte e si capite. Sembrava una cosa molto strana. Ma senz'altro era difettosa l'antenna, senz'altro. Io mi sono appena montato quella subito, tac, subito. No, un'altra gubba, no. Non ha niente a che fare quella lì con l'altra, capito? Non ha niente a che fare. Va bene, ottimo per la truppa e va bene così. Adesso almeno anche lui c'ha la radiolina a casa, ma va bene, sono contento. Adesso le faccio prendere l'MV più 4 da Gigi, intanto non se ne fa niente, che è già modificato, e lo attacchiamo all'MS200 e poi l'altro che arriva si fa la connessione giusta e si attacca all'altro, alla 48, quello normale, poi quello modificato ce l'ha in macchina, quindi usavo di più. Va benissimo, però le do il commutatore di antenna perché lui sta sempre, attacca una radio, attacca quella, invece si tiene l'antenna sempre collegata al commutatore. E con gli spezzoni commuta le radio, almeno non fa casino. Perché se no lì stai attacca e stacca, si risaldano le PL e poi un manicomio. Invece il commutatore d'antenna va molto meglio. Sì, perché commuti l'altra radio, la commuti e ciccia, non stai lì a staccare lo spinotto, tornare ad attaccare e via, e ci vuole proprio. C'è gente lì, ci vuole sì. No, il commutatore antenna è molto comodo perché ha già 2-3 radio, è molto comodo anche tu. Non stai lì a manovrare, a fare, faccia, va bene. Va benissimo, non c'è nessun problema. Uia, uia. Cazzo, no. Figuriamo domani andare a Cagliari, ma non l'aspettavo. Il mio collega è andato oggi, certo siamo visti stamattina, ma tu hai fatto verso le 9:30, le 10. È partito, cazzo, è netturato senza patente. Lì al bivio di Oristano, siamo sentiti stasera, gli hanno sequestrato la patente. Cercato, non ero veloce, ero a 160, ma non ti vai tu a passare al bivio di Oristano, via Santa Giusta, cazzo a 160. C'è un BMW, un 320 diesel, una bella macchina. Cazzo è passata a 160. Hai tesito, io domani faccio un 3000, passo a 230. Poi c'è mio cognato, mi dice che lo godo, se torno senza macchina. Allora, dai coscienti, se i limiti sono quelli di velocità, devi tenere, esci prima, cosa vuol dire? Si esce un'ora prima, due ore prima, però bisogna andare tranquilli, se no via. Gira la patente quando te la giù, che è difficile, eh? Tanto è essere incoscienti, capito? È essere incoscienti, il tempo ce l'aveva, perché anche lui aveva appuntamento. Praticamente siamo i quattro responsabili di zona che ci hanno convocato a Cagliari, quindi uno lunedì, uno martedì, l'altro mercoledì e giovedì e venerdì, tutta la settimana a ruota. Quindi se tu hai appuntamento a mezzogiorno e mezzo, cazzo parti alle 9:30 con una macchina che fa di 220 all'ora, che problema c'è di metterti a correre? C'era il tempo tranquillamente, perché domani parto alle 9:30. Io alle 11 sono a Cagliari, ma con molta tranquillità, 10:30, 11, sono a Cagliari senza nessun problema. Non posso rischiare di farmene prendere la patente o di prendere qualche contravvenzione, non va bene, capito? E tu sei portacorri e l'hanno impiccato, peggio per lui, glielo ho detto. Adesso ti attacchi al ceccio, voglio vedere come cazzo fai a guidare a lavoro, ci vengono a prendermi, cazzo per la comodità, ma chi non viene a me a venire a pigliarti? Beh, purtroppo quando sei cosciente, vista là, non succede, potete pigliare la patente, è un casotto, e poi lui li serve per, uno per lavorare, due per farsi i cavoli suoi, però vedi, bisogna essere prudenti, non bisogna andare con il capo che lavora, no? Prudenza ci vuole, prudenza. E vedrà che gliela danno molto prima a lui, capito? È il figlio grande di Gigliosa e Cervilli, l'ex sindaco di Polozzone, quindi non c'è problema. Ma prevedi che gli umani faccia la patente, succede a me se la tenne nei 3 mesi, voi che non chiami a Cagliari e la mamma e fate a casino in regione, boh. Uia, no, lui è con la turità, è uno responsabile di zona. Ce ne sono due di loro, l'hanno chiamato e 3 di noi. E comunque, la gente si è un mezzo imbecille, perché bastava andare piano e non te la prendevo la patente. Cioè, pensavo di non farcelo, ho accelerato un po', cazzo, ti sei voluto accelerare più a Oristano. Sono sempre di loro, sotto il ponte, in agguato, bastardi, cazzo. Si è andati a farsi altra cosa, invece di anche a tentare macchine. Da una parte sono anche un miserabile, perché tante neghibi, che altro va a tentare, persona che magari può come distrattamente accedere a più del previsto perché deve fare commissioni. Di bronca le maledizioni è venuta, ma stanno diventando duri, non perdonano più adesso. Massimo l'ha detto anche Luigi domenica. Ma è toccato, stai attento quando vai a Cagliari, perché sono sempre lì. o a Santa Giusta o a Tramazza o lì a dopo Macomer, comunque ci sono sempre, tutti i giorni loro sono lì. O c'è una pattuglia prima, o c'è una pattuglia dopo. Bisogna stare attenti, non c'è niente da fare, il limite c'è, bisogna rispettarlo. Anche perché quel pezzo lì dove è passato lui è molto trafficato, c'è la circonvallazione di Tarros e quindi escono articolati, escono macchine, bisogna stare attenti. Non bisogna andare così, dai due varugaba fumo, ma anche quando stava parlando sempre di corsa, sempre agitato, sempre grande torre, ragazzi. Un sacco di volte gli ho detto anche io, ma che vuoi ti rilasci camminando? Cazzo, vuoi dire, andare, cazzo, devo andare. Ah, fanculo, devi andare. Cazzo, mi non ti darà delle medaglie a me. Che ti è successo, Falchi? Oh, niente. E così, troppo così, andate nella linea. Problemi grossi, purtroppo, quando ti ritirano la patente, sono problemi grossi. E lo so che Gigi lo dice sempre, che Gigi va sempre spesso e volentieri quel tragitto lì, lo sa, a tutti i punti dove si mettono, capito, e via dicendo. Se me l'ha detto domenica quando ero da lui, di stare attento a quel pezzo lì, anche se ho sempre in chivi, quindi è chiaro che uno, se ti avvisano che conoscono bene la zona, devi stare attento, non puoi giocare così, anche perché la patente oggi come oggi è un casino, se te la danno te la prendono. Va bene, ma Mauro cazzo gaggiuto è dromito, Mauro è... subito. Non so se sei andato, ma non credo, se no avrebbe salutato, o se rientra, e già sono le 10, altri 10 minuti e poi spengo tutto anche io e me ne vado a vedermi un po' di TV e poi a nanna, se no niente da fare. Quindi Binaggio ha detto sì, ci fermo giambo, gli do con la KB23 col tane più 3 e tu mi dà dell'Airbex con un microfono di rigirisci. Secondo te? Passa tutto il mondo com'è? Vabbè, tu guarda, lascia perdere. No, ma stavo scherzando. Ma è rimasto veramente, mi ha toccato, guarda. Non si allontana molto dal K, ti dirò che c'è una modulazione veramente molto bella, no, ma io ormai mi metto cuffie a fare monitor ad ascoltarmi, ma con questa c'ho sempre le cuffie in testa perché mi piace veramente la modulazione che ha, proprio la chiarezza. Anche Roberto Quadrato che sta sempre attento a queste cose, ma è toccato, è veramente allucinante, veramente bella. Ho provato anche il Sadelta, è un po' più, rimane più grossa rispetto a questa c'ha toni molto più acuti, però va molto bene, non c'è problema. Ok, d'accordo. Anto, quando vuoi chiudere dimmelo, che io spengo tutto e me ne vado dall'altra parte, non c'è problema. Io adesso chiudo domani la banca, vado di nuovo e niente, fammi sapere se fa quella questione e così vediamo un po', dai, se sono lì però che non tardo col lavoro, discendiamo e lo facciamo. E Anto, non c'è problema, se non sarà domani, oramai l'antenna è piazzata, se non sarà domani sarà dopodomani, io non so a che ora rientro da Cagliari. Tanto Mauro è con me, se rientriamo presto ne abbiamo voglia, si mette in sicurezza, tanto il materiale lo prendiamo, ci prendiamo l'appeso, lo prendiamo con i tiranti già pronti che sono a pacchetti da 20 metri, così ne abbiamo due, 10 a una parte e 10 all'altra, se c'è il tempo e la voglia si fa, altrimenti ti si fa mercoledì, non è un problema quello, capito? Ammarogelo, te ne veda, ok, dai, io ti saluto Claudia, passa una buona notte, fai un buon viaggio, un buon ritorno per domani, prudenza mi raccomando, e niente, poi già ci sentiremo radio o telefonicamente, dai. Ci sono problemi. Se ti trattini e senti a Mauro, salutamelo e niente, dai. E tutte le prossime idee. Ciao, buonanotte, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Ah, ciao ciao ciao ciao. Antro, ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Ci sentiamo domani, ci aggiorniamo telefonicamente domani, non lascio acceso, però me ne vado nel salone. Se chiama Mauro le rispondo, se non chiama nessuno, spengo tutto e ciao ciao ciao ciao. Bene, dai, buonanotte a te e guerriera familiare, dai. Tutto a domani. Ciao ciao ciao. Ciao ciao, Antro, a domani, ciao. Ciao. Yes, sir. mi fa tutto, infatti gli altri sono già tutte spente, Antonio è già andato a mamma e io me ne passo lo stesso nel 144. Allora passo il 30, allora va mezzo, ok, ci vediamo il caffè e partiamo. Ehi, va bene, no vabbè, mi interessava vedere questo, che differenza c'è tra... Anch'io adesso mi corico, così andiamo le mattine per andare 4 e vado a lavorare e dopo ci vedremo nel 9 e mezzo. Ottimo lavoro, hai fatto male, va bene. Poi se c'è qualche spezzone che ti serve, me lo dici. Io ce li ho già pronti, c'è anche quello grosso, che è una perdita. Ho anche il 58-59, che li uso anche per gli amplificatori. Fammi sapere cosa ti serve domani mattina, quando ci vediamo, quando rientriamo, passiamo qua, li prendiamo, capito? Va bene, ci vediamo, dai, vediamo un attimino di sistema. Vabbè, per mi interessa più di tutto dare una bella sistemata con l'antenna, ma non lo si muova. E non va da nessuna parte. Quella la facciamo immediatamente. Ricordami domani prendiamo anche due tirantini e li rimettiamo, non si vedono neanche. Proprio giusti a venire verso il tetto all'interno, che rimane più sicura. Rimane più sicura, dai, da me. E poi si sistema con la staffa. Dopo mettiamo a posto la stazione, sistemiamo bene quell'amplificatore, passiamo a prendere quel microfono, insomma dai, ci mettiamo tutto a posto, già stai andando alla grande, perché da Santiago Rotto che arrivavi a 9.30, non lo gioco io. Beh, infatti. No, vabbè, ma intanto stavo parlando con il mercato, eventualmente secondo me la voce si murano anche quelle che ci sono qui. Mi stava dicendo, muriamo quelle direttamente, sempre cemento, qua ci metto a presa rapida, un po' di sabbia, si murano quelle, buonanotte, così non vanno da nessuna parte. Non va proprio da nessuna parte, no, va bene. Già serviamo a Mastro Antonio, non c'è problema. Mettiamo a franchetto, facciamo fare i buchi, cementare bene le staffe, e si solleva il tubo quanto vogliamo, e via. Si buono i tenanti, questi vanno nei buchi. E facciamo lavoro fatto bene, adesso l'abbiamo fatto così in fretta, comunque già va bene lo stesso. Poi domani lo completiamo, se non vedo male che ne abbiamo voglia, che ne entriamo tardi, siamo stanchi, lo facciamo dopo domani, l'ho già avvisato Antonio. Va bene, figlio. No vabbè, perché intanto stavo parlando su mettere, ma i limiti si murano. E buonanotte, anche perché così murato non gioca. E niente, lo possiamo alzare anche un po'. Certo, non ci bisogna neanche rimattete effetti, porto il martello e facciamo prima e tutto meno fatica e non siamo lì alla pece del padre. Si scudi di quattro colpi col martello, ci fanno bene fuori, lo lasciamo asciugare, va bene, dai, ce ne parliamo domani. Ok, spegni tutto lì anche le linee retto, non lasciare niente acceso. No, non lascio nulla acceso, a parte che queste sono conservo, lo metto dentro. A cuccia e ci vediamo domani mattina alle 9:30, dai, ciao, buonanotte. E io muore, ciao, buonanotte, sono a casa domani, ciao.